Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola della terza notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. Lauretta conobbe che a lei toccava il dover dire. Laonde, senza aspettare che dalla signora imposto le fusse, in tal guisa cominciò a parlare. Favola terza. Biancabella, figliuola di Lamberico Marchese di Monferrato, viene mandata dalla matrigna di Ferrandino, re di Napoli, ad uccidere. Ma gli servi le troncano le mani e le cavano gli occhi, e per una biscia viene reintegrata e a Ferrandino lieta ritorna. È cosa laudevole e necessaria molto che la donna, di qualunque stato e condizione esser si voglia, nelle sue operazioni usi prudenza, senza la quale niuna cosa ben si governa. E se una matrigna, della quale ora raccontarvi intendo, con modestia usata l'avesse, forse altrui credendosi uccidere non sarebbe stata, per divino giudicio, uccisa d'altrui, sì come ora intenderete. Regnava già gran tempo fa in Monferrato un marchese potente di stato e di ricchezze, ma de figlioli privo, e Lamberico per nome si chiamava. Essendo egli desideroso molto di avergliene, la grazia da Iddio gli era denegata. Avvenne un giorno che, essendo la marchesana in un suo giardino per diporto, vinta dal sonno, a piedi d'un albero s'addormentò. E così soavemente dormendo, venne una biscia, piccioletta, ed accostatesi a lei, ed andatasene sotto i panni suoi, senza che ella sentisse cosa alcuna, nella natura entrò, e sottilissimamente ascendendo nel ventre della donna si puose, ivi chetamente dimorando. Non stette molto tempo che la marchesana, con non picciolo piacere ed allegrezza di tutta la città, si ingravidò, e giunta al termine del parto parturì una fanciulla con una biscia che tre volte la vinchiava il collo. Il che vedendo, le comari che l'allevavano si paventarono molto, ma la biscia, senza offesa alcuna, dal collo della bambina disnodandosi e serpendo la terra e distendendosi, nel giardino se n'andò. Nettata ed abbellita che fu la bambina nel chiaro bagno ed involta negli bianchissimi pannicelli, a poco incominciò a scoprirsi una collana d'oro sottilissimamente lavorata, la quale era sì bella e sì vaga che tra carne e pelle non altrimenti traspareva di ciò che sogliono fare le preziosissime cose fuori d'un finissimo cristallo. E tante volte le circondava il collo quante la biscia circondato le aveva. La fanciulla a cui per la bellezza Biancabella fu posto il nome, in tanta virtù e gentilezza cresceva che non umana ma divina pareva. Essendo già Biancabella venuta alla età di 10 anni ed essendosi posta ad un overone ed avendo veduto il giardino di rose e vaghi fiori tutto pieno, si volse verso la balia che la custodiva e le dimandò che cosa era quello che più per lo adietro veduto non aveva. A cui risposo fu essere un luogo della madre chiamato giardino, nel quale alle volte ne prende diporto. Disse la fanciulla: «La più bella cosa io non vidi giamai, e volentieri dentro vanderei». La balia, presala a mano, nel giardino la menò, e separatasi alquanto da lei, sotto l'ombra d'un fronzuto faggio, si puose a dormire, lasciando la fanciulla prendere piacere per lo giardino. Biancabella, tutta invaghita del dilettoso luogo, andava or quinci or quindi raccogliendo fiori, ed essendo mai stanca, all'ombra d'un albero si puose a sedere. Non s'era appena la fanciulla rassettata in terra che sopraggiunse una biscia ed accostossi a lei, la quale Biancabella, vedendo, molto si paventò e, volendo gridare, le disse la biscia: «Deh, taci e non ti muovere né aver pavento, perciò che ti sono sorella e teco in un medesimo giorno ed in uno stesso parto nacqui, e Samaritana per nome mi chiamo, e se tu sarai ubbidiente ai miei comandamenti farotti beata, ma altrimenti facendo verrai la più infelice e più scontenta donna che mai nel mondo si trovasse. Va adunque senza timore alcuno e dimani fatti recare nel giardino due vasi, dei quai l'uno sia di puro latte pieno e l'altro d'acqua rosata finissima, e poi tu sola, senza compagnia alcuna, a me te ne verrai.» Partita la biscia, levossi la fanciulla da sedere ed andossene alla balia, la qual ritrovò ch'ancora riposava, ed estatala con esso lei, senza dir cosa alcuna, se n'andò in casa. Venuto il giorno seguente, ed essendo Biancabella con la madre in camera sola, assai nella vista sua malanconosa le parve, laonde la madre le disse: «Che hai tu, Biancabella, che star sì di mala voglia ti veggio? Tu eri allegra e festevole, ed ora tutta mesta e dolorosa mi pari.» A cui la figliuola rispose: «Altro non ho io, se non che io vorrei due vasi, i quali fussero nel giardino portati, uno dei quai fusse di latte e l'altro di acqua rosata pieno.» «E per sì picciola cosa tu ti rammarichi, figliuola mia?» disse la madre. «Non sai tu che ogni cosa è tua? E fattisi portar due bellissimi vasi grandi, uno di latte e l'altro d'acqua rosata, nel giardino li mandò. Biancabella, venuta l'ora, secondo l'ordine con la biscia dato, senza esser d'alcuna damigella accompagnata, se n'andò nel giardino, ed aperto l'uscio, sola, dentro, si chiuse. E dove erano gli vasi, a sedere si puose. Non si fu sì tosto posta Biancabella a sedere, che la biscia se le avvicinò, e facela immantinente spogliare, e così ignuda nel bianchissimo latte entrare, e con quello da capo a piedi bagnandola, e con la lingua lingendola, la nettò per tutto, dove difetto alcuno parere le potesse. Dopo, tratta fuori di quel latte, nell'acqua rosata la pose, dandole un odore che a lei grandissimo refrigerio prestava. Indi la rivestì, comandandole espressamente che tacesse e che a niuna persona tal cosa scoprisse, quantunque il padre o la madre fosse. Perciò che voleva che niuna altra donna si trovasse che a lei in bellezza ed in gentilezza agguagliarsi potesse. e addotatala finalmente di infinite virtù, da lei si partì. Uscita Biancabella del giardino, ritornò a casa e, vedutala la madre, sì bella e sì leggiadra che ogni altra di bellezza e leggiadria avanzava, restò sopra di sé e non sapea che dire. Ma pur la dimandò come aveva fatto a venire in tanta estremità di bellezza. Ed ella, non sapere, le rispondeva. Tolse allora la madre il pettine per pettinarla e per conciarle le bionde trezze, e perle e preziose gioie le cadevano dal capo, e lavategli le mani, uscivano rose, viole e ridenti fiori di vari colori, con tanta soavità de odori che pareva che ivi fusse il paradiso terrestre. Il che vedendo, la madre corse a Lamberico suo marito e con materna allegrezza gli disse: «Signor mio, noi abbiamo una figliuola la più gentile, la più bella e la più leggiadra che mai natura facesse. Ed oltre la divina bellezza e leggiadria che in lei chiaramente si vede, dagli capelli suoi escono perle, gemme ed altre preziosissime gioie, e dalle candide mani, oh cosa ammirabile, vengono rose, viole ed ogni sorte fiori, che rendono a ciascuno che la mira suavissimo odore. Il che mai creduto non arrei, se con i propri occhi veduto non l'avesse». Il marito, che per natura era incredulo e non dava sì agevolmente piena fede alle parole della moglie, di ciò se ne rise e la berteggiava. Pur fieramente stimolato da lei, volse vedere che cosa ne usciva. E fattasi venire la figliuola alla sua presenza, trovò vieppiù di quello che la moglie detto gli aveva. Il perché in tanta allegrezza divenne che fermamente giudicò non essere al mondo uomo che, congiungersi con essa lei, in matrimonio degno fusse. Era già per tutto l'universo divulgata la gloriosa fama della vaga e mortal bellezza di Biancabella. E molti re, principi e marchesi da ogni parte concorrevano a ciò che in lei amore acquistassino ed in moglie l'avessino. Ma niuno di loro fu di tanta virtù che averla potesse, perciò che ciascuno di loro in alcuna cosa era manchevole. Finalmente sopraggiunse Ferrandino, re di Napoli, la cui prodezza e chiaro nome risplendeva come il sole tra le minute stelle. Ed andatosene al marchese, gli dimandò la figliuola per moglie. Il marchese, vedendolo bello leggiadro e ben formato, e molto potente e di stato e di ricchezze, conchiuse le nozze, e, chiamata la figliuola, senza altra dimoranza, si toccorno la mano e basciorono. Non fu sì tosto contratto il sposalizio che Biancabella si rammentò delle parole che Samaritana, sua sorella, amorevolmente dette le aveva. E discostatasi dal sposo e fingendo di voler fare certi suoi servigi, in camera se n'andò. E chiusasi dentro, sola, per un usciolo, segretamente entrò nel giardino e con bassa voce cominciò a chiamare Samaritana. Ma ella non più come prima se le appresentava, il che vedendo, Biancabella molto si maravigliò, e non trovandola né veggendola in luogo alcuno del giardino, assai dolorosa rimase, conoscendo ciò essere avvenuto, per non esser lei stata ubbidiente ai suoi comandamenti. Onde, ramaricandosi tra se stessa, ritornò in camera, ed aperto l'uscio, si pose a sedere appresso il suo sposo, che lungamente aspettata l'aveva. Or finite le nozze, Ferrandino la sua sposa a Napoli trasferì, dove con gran pompa e glorioso trionfo e sonore trombe fu da tutta la città orrevolmente ricevuto. Aveva Ferrandino matrigna con due figliuole sozze e brutte, e desiderava una di loro con Ferrandino in matrimonio copulare. Ma essendole tolta ogni speranza di conseguir tal suo desiderio, si accese contra di Biancabella di tanta ira e sdegno che non pur vedere ma sentire non la voleva, fingendo però tuttavia d'amarla ed averla cara. Volse la fortuna che il re di Tunisi fece un grandissimo apparecchiamento per terra e per mare per mover guerra a Ferrandino. Non so se questo fusse per causa della presa moglie ove per altra cagione, e già col suo potentissimo esercito era entrato nelle confine del suo reame. Laonde fu di bisogno che Ferrandino prendesse l'arme per difensione del regno suo e raffrontasse il nemico. Onde, messosi in punto di ciò che li faceva mistieri, e raccomandata Biancabella, che gravida era, alla matrigna, col suo esercito si partì. Non passorono molti giorni che la malvagia e proterva matrigna deliberò Biancabella far morire. E chiamati certi suoi fidati servi, li commise che, con esso lei, andar dovessino in alcun luoco per diporto, ed indi non si partissero se prima da loro uccisa non fusse. E, per certezza della morte sua, le recassino qualche segno. Gli servi, pronti al malfare, furono obbedienti alla signora e, fingendo di andare ad uno certo luogo per diporto, la condussero ad un bosco, dove già di ucciderla si preparavano. Ma, vedendola sì bella e sì graziosa, gli venne pietà ed uccidere non la volsero, ma le spiccorono ambe le mani dal busto e gli occhi di capo le trassero, portandogli alla matrigna per manifesta certezza che uccisa l'avevano. Il che vedendo l'empia e cruda matrigna, paga e molta lieta rimase. E pensando la scelerata matrigna di mandare ad effetto il suo maligno proponimento, seminò per tutto il regno che le due figliuole erano morte, una di continua febbre, l'altra per una postema vicino al cuore ch'affocata l'aveva. E che Biancabella, per lo dolore della partita del re, disperso aveva un fanciullo e sopraggiunta l'era una terzana febbre che molto la distruggeva e che vi era piuttosto speranza di vita che temenza di morte. Ma la malvagia e rea femmina, invece di Biancabella, teneva nel letto del re una delle sue figliuole, fingendo lei esser Biancabella da febbre gravata. Ferrandino, che l'esercito del nemico aveva già sconfitto e disperso, a casa si ritornava con glorioso trionfo, e credendosi ritrovare la sua diletta Biancabella tutta festevole e gioconda, la trovò che macra, scolorita e disforme nel letto giaceva, ed accostatosi bene a lei e guatatala fiso nel volto e vedutala sì distrutta, tutto stupefatto rimase, non potendosi in modo alcuno immaginare che ella Biancabella fosse, e fattala pettinare, invece di gemme e preziose gioie che dalle bionde chiome solevano cadere, uscivano grossissimi pedocchi che ogni ora la divoravano, e dalle mani che ne uscivano rose ed odoriferi fiori usciva una lordura e uno sudiciume che stomacava chi le stava appresso. Ma la scelerata donna lo confortava e gli diceva questa cosa avvenire per la lunghezza della infermità che tali effetti produce. La misera adunque Biancabella, con le mani monche e cieca d'ambi gli occhi, nel luoco solingo e fuor di mano, soletta in tanta afflizione si stava, chiamando sempre e richiamando la sorella samaritana che aiutare la dovesse, ma niuno vi era che le rispondesse se non la risonante eco che per tutto tutta l'aria si udiva. Mentre che la infelice donna dimorava in cotal passione, vedendosi al tutto priva di umano aiuto, ecco entrare nel bosco un uomo attempato molto, benigno di aspetto e compassionevole assai, il quale, udita che ebbe la mesta e lamentevole voce, a quella con le orecchie accostatosi e piano piano con i piedi avvicinatosi, trovò la giovane cieca e monca delle mani, che della sua dura sorte fieramente si ramaricava. Il buon vecchio, vedutala, non puote sofferire che tra bronchi, dumi e spini rimanesse, ma, vinto da paterna compassione, a casa la condusse ed alla moglie la raccomandò, imponendole strettissimamente che di lei cura avesse. E voltatosi a tre figliuole, che tre lucidissime stelle parevano, caldamente le comandò che compagnia tenere le dovessino, carezzandola a tutt'ore e non lasciandole cosa veruna mancare. La moglie, che più cruda era che pietosa, accesa di rabbiosa ira contra il marito, impetuosamente si volse e disse: «Deh, marito, che volete voi che noi facciamo di questa femmina cieca e monca? Non già per le sue virtù, ma per guidardone dei suoi benemeriti?» A cui il vecchiarello con sdegno rispose: «Fa ciò che io ti dico, e se altrimenti farai, non mi aspettar a casa». Dimorando adunque la dolorosa Biancabella con la moglie e le tre figliuole, e ragionando con esso loro di varie cose e pensando tra se stessa alla sua sciagura, pregò una delle figliuole che le piacesse pettinarla un poco. Il che intendendo, la madre molto si sdegnò, perciò che non voleva in guisa alcuna che la figliuola divenisse come sua servitrice. Ma la figliuola, più che la madre, pia, avendo a mente ciò che commesso le aveva il padre, e vedendo non so che uscire dall'aspetto di Biancabella che dimostrava segno di grandezza in lei, si scinse il grembiale di bucato che dinanzi teneva, e stesolo in terra amorevolmente la pettinava. Né appena cominciato aveva a pettinarla, che delle bionde trezze scaturivano perle, rubini, diamanti ed altre preziose gioie. Il che vedendo, la madre non senza temenza, tutta stupefatta rimase, e l'odio grande che prima le portava in vero amore converse. E ritornato il vecchiarello a casa, tutte corsero ad abbracciarlo, rallegrandosi molto con esso lui della sopraggiunta ventura a tanta sua povertà. Biancabella si fece recare una secchia d'acqua fresca e fecesi lavare il viso ed i monchi, dalli quali, tutti vedendo, rose, viole e fiori in abbondanza scaturivano. Il perché non umana persona, anzi divina, la reputarono tutti. Avvenne che Biancabella deliberò di ritornare al luogo dove fu già dal vecchiarello trovata. Ma il vecchiarello, la moglie e le figliuole, vedendo l'utile grande che di lei n'apprendevano, la carezzavano ed istantemente la pregavano che in modo alcuno partire non si dovesse, allegandole molte ragioni a ciò che rimuovere la potessino. Ma ella, salda nel suo volere, volse al tutto partirsi, promettendoli tuttavia di ritornare. Il che sentendo, il vecchio, senza indugio alcuno, al luogo dove trovata l'avea, la ritornò. Ed ella, al vecchiarello, impose che si partisse e la sera ritornasse a lei, che ritornerebbe con esso lui a casa. Partitosi adunque il vecchiarello, la sventurata Biancabella cominciò a andare per la selva, samaritana chiamando, e le strida e i lamenti andavano fino al cielo. Ma samaritana, quantunque appresso le fusse, né mai abbandonata l'avesse, rispondere non le voleva. La miserella, vedendosi spargere le parole al vento, disse: «Che debbo io più fare al mondo, dopo che io sono priva degli occhi e delle mani, e mi manca finalmente ogni soccorso umano?» Ed accesa da uno furore che la tolleva fuor di speranza della sua salute, come disperata si voleva uccidere. Ma non avendo altro modo di finir la sua vita, prese il cammino verso l'acqua, che poco era lontana, per attuffarsi. E giunta in sulla riva, già per entro gittarsi, udì una tonante voce che diceva: «Ahimè, non fare, né voler di te stessa essere omicida. Riserba la tua vita a miglior fine». Allora Biancabella, per tal voce smarrita, quasi tutti i capelli addosso si sentì arricciare, ma parendole conoscere la voce, preso alquanto di ardire, disse: «Chi sei tu che vai errando per questi luoghi e con voce dolce e pia ver me ti dimostri?» «Io sono», rispose la voce, «Samaritana tua sorella, la quale tanto istantemente chiami». Il che udendo, Biancabella con voce da fervidi singolti interrotta, le disse: «Ah, sorella mia, aiutami, ti prego, e se io dal tuo consiglio scostata mi sono, perdono ti chiedo. Perciò che errai, ti confesso il fallo mio, ma l'error fu per ignoranza, non per malizia, che se per malizia stato il fusse, la divina provvidenza non l'arrebbe lungo tempo sostenuto». Samaritana, udito il compassionevole lamento e vedutala così maltrattata, alquanto la confortò, e raccolte certe erbucce di maravigliosa virtù e postele sopra gli occhi, e giungendo due mani alle braccia, immantinente la risanò. Poscia, Samaritana, deposta giù la squallida scorza di biscia, una bellissima giovanetta rimase. Già il sole nascondeva gli suoi folgenti rai, e le tenebre della notte cominciavano a apparire, quando il vecchiarello, con frettoloso passo, giunse alla selva e trovò Biancabella che con un'altra ninfa sedeva. E miratala nel chiaro viso, stupefatto rimase, pensando quasi che ella non fosse. Ma poi che conosciuta l'ebbe, le disse: «Figliuola mia, voi eravate stamane cieca e monca, come siete voi così tosto guarita?» Rispose Biancabella: «Non già per me, ma per virtù e cortesia di costei che meco siede, la quale mi è sorella». E levatesi ambedue da sedere, con somma allegrezza insieme con il vecchio se n'andarono a casa, dove dalla moglie e dalle figliuole furono amorevolmente ricevute. Erano già passati molti e molti giorni quando Samaritana, Biancabella ed il vecchiarello con la moglie e con le tre figliuole andarono alla città di Napoli per ivi abitare. E veduto un luoco vacuo che era al dirimpetto del palazzo del re, ivi si posero a sedere. E venuta la buia notte, Samaritana, presa una vergella di lauro in mano, tre volte percosse la terra dicendo certe parole, le quali non furono appena fornite di dire che scaturì un palazzo il più bello ed il più superbo che si vedesse giamai. Fattosi Ferrandino re la mattina per tempo alla finestra, vide il ricco e maraviglioso palazzo e tutto attonito e stupefatto rimase, e chiamata la moglie e la matrigna lo vennero a vedere, ma ad esse molto dispiacque, perciò che dubitavano che alcuna cosa sinistra non le avvenisse. Stando Ferrandino alla contemplazione del detto palazzo ed avendolo d'ogni parte ben considerato, alzò gli occhi e vide per la finestra d'una camera due matrone che di bellezza facevano invidia al sole. E tantosto che l'ebbe vedute, gli venne una rabbia al cuore, perciò che li parve una di loro la sembianza di Biancabella tenere, ed addimandolle chi fussero e d'onde venisseno, a cui fu risposo che erano due donne fuoruscite e che venivano di Persia con il loro avere per abitare in questa gloriosa città. Ed addimandate se grato averebbero che da lui e dalle sue donne visitate fussero, gli risposero che caro le sarebbe molto, ma che era più convenevole ed onesto che elle, come suddite, andassero a loro, che elle, come signore reine, venissero a visitarle. Ferrandino, fatta chiamare la reina e le altre donne, con esso loro, ancor che ricusassino di andare, temendo forte la loro propinqua roina, se ne girono al palazzo delle due matrone, le quali con benigne accoglienze e onesti modi onoratissimamente le ricevettero, mostrandogli le ampie logge, spaziose sale e ben ornate camere, le cui mura erano d'alabastro e porfido fino, dove si vedevano figure che vive parevano. Veduto che ebbero il pomposo palazzo, la bella giovane, accostatasi al re, dolcemente lo pregò che si degnasse con la sua donna di voler un giorno con esso loro desinare. Il re, che non aveva il cuor di pietra ed era di natura magnanimo e liberale, graziosamente tenne lo invito e, rese le grazie dell'onorato accetto che le donne fatto gli avevano, con la reina si partì ed al suo palazzo ritornò. Venuto il giorno del deputato invito, il re, la reina e la matrigna, regalmente vestite ed accompagnate da diverse matrone, andorono ad onorare il magnifico prandio già lautamente apparecchiato, e data l'acqua alle mani, il siniscalco mise il re e la reina ad una tavola alquanto più eminente ma propinqua alle altre. Dopo fece tutti gli altri, secondo il loro ordine, sedere, e da gran agio e lietamente tutti desinarono. Finito il pomposo prandio e levate le mense, levossi Samaritana in piedi e, voltatasi verso il re e la reina, disse: «Signor, acciò che noi non stiamo nell'ozio avvolti, qualcuno propona alcuna cosa che sia di piacere e contento». Il che tutti confermarono esser ben fatto, ma non vi fu però veruno che proponere ardisse. Onde, vedendo Samaritana tutti tacere, disse: «Dopo che niuno si muove a dire cosa alcuna, con licenza di vostra maestà farò venire una delle nostre donzelle che ci darà un picciolo diletto». E fatta chiamare una damigella, che Silveria per nome si chiamava, le comandò che prendesse la cetra in mano ed alcuna cosa degna di laude ed in onore del re cantasse, la quale, ubbidientissima alla sua signora, prese la cetra e, fattasi al dirimpetto del re, con soave e dilettevol voce, toccando col plettro le sonore corde, ordinatamente li raccontò l'istoria di Biancabella, non però mentovandola per nome. E giunta al fine dell'istoria, levossi Samaritana ed addimandò al re qual convenevole pena, qual degno supplicio meriterebbe colui che sì grave eccesso avesse commesso. La matrigna, che pensava con la pronta e presta risposta il difetto suo coprire, non aspettò che il re rispondesse, ma audacemente disse: «Una fornace fortemente accesa sarebbe a costui poca pena a quella che egli meriterebbe». Allora Samaritana, come bragia di fuoco nel viso avampata, disse: e tu sei quella rea e crudel femmina per la cui cagione fu tanto errore commesso. E tu, malvagia e maledetta, con la propria bocca te stessa ora dannasti. E voltatasi Samaritana al re, con allegra faccia gli disse: «Questa è la vostra Biancabella, questa è la vostra moglie da voi cotanto amata, questa è colei senza la quale voi non potevate vivere». Ed in segno della verità comandò alle tre donzelle figliuole del vecchiarello che in presenza del re le pettinassino i biondi e crespi capelli, dai quali, come è detto di sopra, ne uscivano le care e dilettevoli gioie, e dalle mani scaturivano mattutine rose e odorosi fiori. E per maggior certezza dimostrò al re il candidissimo collo di Biancabella intorniato da una catenella di finissimo oro che tra carne e pelle naturalmente come cristallo traspareva. Il re, conosciuto che ebbe per veri indizi e chiari segni lei esser la sua Biancabella, teneramente cominciò a piangere ed abbracciarla, ed indi non si partì che fece accendere una fornace. E la matrigna e le figliuole messevi dentro, le quali, tardi pentute del peccato suo, la loro vita miseramente finirono. Appresso questo, le tre figliuole del vecchiarello orrevolmente furono maritate, e Ferrandino re, con la sua Biancabella e Samaritana, lungamente visse, lasciando dopo sé eredi legittimi nel regno. Fine della storia. Aveva la favola di Lauretta più volte commosse le compagne a lagrimare, ma essendo quella già compiuta, la signora le impose che il cominciato ordine seguisse ed il suo enigma proponesse. Ed ella, non aspettando altro comandamento dalla signora, così graziosamente disse: «Passa per mezzo d'un fiorito prato una superba e cruda damigella, la coda piana, il capo rilevato, veloce è nell'andar e molto snella, ha l'occhio acuto e il tocco poco grato, qua e là muove la lingua e non favella, lunga e sottil è molto e berettina, bene saggio colui che l'indovina». Attentamente tutti stettero ad ascoltare lo arguto enimma della festevole Lauretta, la quale, vedendo quello rimanere irresolubile, disse: «Donne mie care, per non tenervi a bada e per non fastidir le menti vostre già tutte turbate per la compassionevole favola da me raccontata, dirovvi, se vi è in piacere, con brevità la risoluzione. La damigella altro non è se non la biscia, la quale, andando per i prati col capo erto e con la coda bassa, paventa con l'acuto occhio tutti che la vedono. Ognuno si maravigliò forte che nella compagnia non si trovasse alcuno che sapesse risolver lo enimma da Lauretta risolto». Fine della terza favola della terza notte. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro.